perso e non so perché. A volte la mia vita va da sé. Vorrei non pensarci più, ma tutto quel che ho dato torna su. È proprio come stare in bilico tra terra ferma e mare. Ho perso l'identità, cercando di fuggire la realtà. Per salvarmi è tardi ormai, ma il tempo passa sempre prima o poi. Tu non ci sei più, no, non ci sei più. Tu non...